Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Libia, l'Italia valuta il proprio ruolo, Francia e Gran Bretagna pronti all'intervento militare. Gheddafi promette sarà l'inferno. Il Giappone alza l'allerta nucleare a Fukushima, livello 5 su una scala di 6. Champions League per l'Inter è andata bene, ai quarti troverà lo Schalke 04. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. A Palazzo Chigi dunque si sono riuniti i ministri competenti e il vertice militare della difesa per decidere quella che sarà la posizione italiana dopo l'approvazione della risoluzione dell'ONU sulla Libia per la no-fly zone. Per definire quale sarà il ruolo italiano, tra poco dovrebbe riunirsi anche il Consiglio dei Ministri. E si vanno via via definendo anche le posizioni internazionali, quelli che saranno i ruoli degli altri paesi coinvolti per un attacco che ormai sembra sempre più certo e imminente. Ma cominciamo, dicevamo, da quello che dovrebbe essere il ruolo italiano, e allora andiamo a Palazzo Chigi da Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Vertice interministeriale qui a Palazzo Chigi sulla Libia. Sono presenti il Premier Silvio Berlusconi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e Paolo Bonaiuto e tra gli altri i ministri degli esteri Franco Frattini e della difesa Ignazio La Russa. Il vertice segue quello informale ieri, subito dopo il Nabucco all'Opera di Roma, con presente Berlusconi, La Russa e anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che oggi è tornato a parlare. Non siamo indifferenti a violazioni dei diritti umani, ha detto il Capo dello Stato. Nelle prossime ore ci attendono decisioni difficili ed impegnative. Mentre, secondo indiscrezione, il Ministro della Difesa Ignazio La Russa sarebbe disponibile a fornire basi e aerei per scopi militari e quindi contribuire alla no-fly zone in Libia. Questa sarebbe attuata, secondo l'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Leonardo Tricarico, a cominciare da un attacco, nel senso che occorre prima neutralizzare mezzi antiaerei e nemici, quindi distruggere radar e postazioni missilistiche. E proprio di questo probabilmente, se concedere le basi ai mezzi militari, che si sta discutendo qui a Palazzo Chigi. Come avete annunciato, tra mezz'ora è previsto anche un consiglio dei ministri straordinari e poi i ministri Frattini e La Russa dovrebbero andare al Senato per riferire alle commissioni congiunte esteri e difesa. Per il momento qui da Palazzo Chigi è tutto, poi studio. Grazie ad Elisabetta Fioritto. Dicevamo, si vanno definendo anche le posizioni degli altri paesi. Domani ci sarà un vertice a Parigi. La Francia si è già detta pronta a intervenire in poche ore e sta diventando il centro della risposta al regime libico. La Gran Bretagna sembra sulla stessa linea. Anche Londra questa mattina ha riunito il governo ed è proprio con Parigi e Londra che ha subito parlato il presidente americano Obama dopo la decisione dell'ONU. Da Washington, Mario Platero. Risoluzione delle Nazioni Unite contro la Libia approvata, qualunque tipo di azione è autorizzata dal Consiglio di sicurezza e la copertura internazionale che gli Stati Uniti volevano, ma quasi a significare il distacco da una possibile azione militare diretta da parte di Washington, il Presidente Barack Obama sta per partire per il Brasile. Parlerò del viaggio in Brasile del Presidente nella mia trasmissione America 24 fra poco. Resta il fatto che dal punto di vista americano la copertura internazionale di cui c'era bisogno c'è e la prima linea del fuoco toccherà probabilmente a Francia e Gran Bretagna. Mario Platero, GR24, il sole 24 ore, Andrews Air Force Base a Washington. Grazie Mario Platero, ti ritroveremo come hai detto alle 13.45 con America 24. E in mattinata anche la Spagna ha deciso di partecipare all'intervento, mentre il Qatar è stato il primo paese arabo a mettersi a disposizione per far rispettare alla Libia la risoluzione ONU. Anche la NATO sta esaminando la risoluzione, studiando il suo eventuale coinvolgimento. Intanto Gheddafi ha parlato questa mattina, ha promesso di trasformare in un inferno, ha detto, la vita di coloro che oseranno intervenire nel mio paese. La Libia ha chiuso lo spazio aereo ed è stato fitto il bombardamento sulla città di Misurata questa mattina, città ancora in mano ai ribelli. Violenti scontri a fuoco anche nell'ovest della Libia, il fulcro dei ribelli, la capitale dei ribelli resta Bengasi, dove c'è Roberto Bongiorni. Ci sono ancora bombardamenti lì? Sì, buongiorno a tutti. No, assolutamente. Dopo la decisione delle Nazioni Unite di imporre la no-fly zone, oggi la Cirenaica è tranquilla e misurata che c'è qualche bombardamento. Ieri è stato il momento della grande festa, la città è impazzita. migliaia di traccianti in aria della contraerea, fuochi d'artificio, persone che si inginocchiavano e baciavano per terra e urlavano grazie Francia, grazie Nazioni Unite. Altri membri del comitato, anche loro in mezzo alla folla, scesi nella grande piazza, in mezzo agli spari, ai mitra, alle bombe lanciate in mare, urlavano: siamo la prima rivolta araba figlia delle Nazioni Unite. Insomma, c'è un clima di grande euforia, di grande speranza. Il problema è che qui a Bengasi adesso i giovani scatenati che facevano parte di questa anarchica armata vogliono a tutti i costi prendere Tripoli, ormai parlano di Tripoli. Se ieri si temeva un attacco di Gheddafi su Bengasi, si temeva che potesse cedere a Shdabia, oggi il sentimento è cambiato radicalmente. Saranno ore molto delicate perché il cessato in fuoco è rivolto a entrambi i belligeranti. E da Bengasi invece arrivano messaggi molto agguerriti, quindi staremo a vedere. Comunque la Cirenaica, ripetono i libici, è una terra liberata, è stata riconosciuta e ora tutti chiedono che gli altri paesi, dopo la Francia e l'Unione Europea, riconoscono il governo de facto della nuova Libia. E da Bengasi è tutto. E grazie anche a Roberto Bongiorni. Io saluto Arduino Paniccia, professore di strategia e preside dell'Università Pentagono per la mediazione e la diplomazia. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professor Paniccia, parliamo di no-fly zone, zona di non sorvolo. Detta così sembra un'espressione pacifica, in realtà non lo è, in queste ore parliamo di intervento militare. Assolutamente, è un intervento anche molto complesso e delicato, perché comunque questo significa che nessun mezzo che vola e nessun mezzo di sostegno o di aiuto ai mezzi che volano può funzionare senza sostanzialmente il permesso delle forze che controllano questo accordo della no-fly zone. Quindi se qualcuno contravviene a questo diktat delle Nazioni Unite, deve essere sostanzialmente abbattuto, la zona deve essere ripulita e non vi devono essere pericoli. Questo significa che da questo momento in poi Gheddafi e i suoi non dovrebbero più usare nessun tipo di mezzo per bombardare, per colpire dall'alto, e quindi ha una capacità di attacco e di reazione assolutamente ridotta. Il che significa, questo è la grande domanda. Significa che se dovessero alzarsi in volo gli aerei di Tripoli, i paesi che avranno il ruolo di intervenire con gli aerei partiranno probabilmente dalle basi italiane per andare in Libia. Questo nella sostanza. E anche dalle navi di supporto, e dovranno abbatterli, o comunque fermarli, o intercettarli, dissuaderli, o tutte le operazioni che si fanno in queste occasioni, anche non arrivando all'estremo scontro, cioè all'abbattimento. Comunque tutte operazioni complesse e difficili che assomigliano molto a un conflitto di tipo aereo, e poi, essendoci anche dei missili o dei razzi che possono partire da terra, anche a un conflitto, questo è ancora più pericoloso, terra-aria. Quindi non si tratta soltanto del combattimento aereo, ma si tratta comunque, ripeto, anche di ripulire tutto quello che può venire da terra. Quindi le basi a terra, le basi, da quindi dove? Gli aeroporti, e quindi le postazioni, e quindi anche i singoli tiratori di missili e di razzi. Ma non solo, ma potrebbe succedere anche un fatto a cui bisogna stare molto attenti, poiché dentro una guerra succede di tutto, può anche capitare che possano essere tratti in inganno, tirati in un agguato anche gli aerei che controllano. Certo. E questa è un'altra parte ancora pericolosa, perché potrebbe accadere addirittura anche da parte dei non seguaci di Gheddafi. Capisce quindi che la situazione è molto più molto complessa di quella che non si veda. Professor Paniccia, tra circa 20 minuti si riunirà il Consiglio dei Ministri, dovrà decidere quale sarà in tutto questo il ruolo italiano. Brevemente, qual è lo scenario più probabile? Quale potrebbe essere il nostro ruolo in tutto questo? Guardi, parlando molto francamente, nel Mediterraneo serviva un pompiere. Sarkozy ha svolto il ruolo, chiamiamolo così, dell'incendiario, anche a buon fine, per salvare la gente, per evitare una guerra civile molto, molto dura. Però noi dobbiamo mantenere un ruolo, come dire, di mediazione, di cautela. Perché siamo anche più vicini. Sì, perché siamo poi anche i primi che potrebbero essere coinvolti, e poi anche perché questo è quello che ci si chiede. Allora, se gli inglesi, i francesi, forse gli americani vogliono svolgere anche un ruolo di prima linea. Ricordiamo bene che questo film l'abbiamo già visto da decine di anni e spesso non è finito bene, l'abbiamo visto nella ex Jugoslavia, in Iraq, in Afghanistan, quindi bisogna stare molto cauti. Quasi tutte le operazioni militari si intraprendono appunto con grandi festeggiamenti, grandi gioie e poi dopo si profila sempre la dura realtà. Detto questo, nella difesa anche del popolo libico e nel tentativo di evitare i massacri va bene, tuttavia noi dobbiamo continuare a svolgere un ruolo più cauto di quello che anche in questo momento di entusiasmo ci viene chiesto. E nelle ampie missioni internazionali ognuno ha il proprio ruolo. Che siano coinvolti soprattutto e bene e veramente anche tutta la parte araba. Questo è uno dei nodi fondamentali per non finire come le altre volte. E grazie ad Arduino Paniccia, professore di strategia e preside dell'Università Pentagono per la mediazione e la diplomazia. Buona giornata. E dicevamo degli altri paesi arabi, allora anche qui i fronti aperti sono ancora molti, a cominciare dallo Yemen. Aggiornamento proprio di questi minuti: almeno 30 i morti causati questa mattina da colpi sparati su una manifestazione di protesta nella capitale dello Yemen, Sana'a, questa mattina. In Arabia Saudita invece il re Abdallah ha annunciato una serie di ordini reali riguardanti l'innalzamento dei salari minimi a tutti i dipendenti statali, che riceveranno anche un bonus di 2 mensilità, un tentativo anche qui di arginare le proteste. E sul fronte degli arrivi verso l'Italia, un altro barcone, dopo quello giunto in nottata, è approdato negli ultimi minuti a Lampedusa. A bordo c'erano 38 persone. Nel canale di Sicilia sono state avvistate altre 7 barche. Un Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, commosso, lo abbiamo sentito in diretta nell'edizione delle 12, ha parlato intanto circa un'ora fa a Torino, nella prima giornata della sua visita per i 150 anni dell'Unità. Ha parlato anche della situazione in Libia, oltre che di quella italiana. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Non possiamo rimanere indifferenti alla sistematica compressione dei diritti umani. Da Torino il capo dello Stato è intervenuto con parole forti e chiare sulla situazione in Libia all'indomani della risoluzione dell'ONU, parlando di decisioni difficili che devono essere prese nelle prossime ore. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento. Non possiamo lasciare che vengano distrutte, calpestate le speranze che si sono accese di un risorgimento anche nel mondo arabo. Cosa decisiva per il futuro del mondo. Mi auguro che le decisioni da prendere siano dunque circondate dal massimo consenso, con questa consapevolezza dei valori che l'Italia Unita incarna e che dobbiamo salvaguardare dovunque. Poi, tornato sulle celebrazioni dell'Unità d'Italia, ieri è accaduto qualcosa di importante, c'è stato uno scatto di sentimento nazionale ed era quello che volevamo suscitare, ha detto Napolitano, secondo il quale occorre però riacquisire un patrimonio storico ideale che abbiamo un po' rimosso per molti anni. Sentiamo ancora le sue parole. Ritorno sul tema della necessità stringente, imperativa, di coesione nazionale. Il che significa avere rinnovato senso della patria e avere rinnovato senso della Costituzione. Un capo dello Stato lungamente applaudito che si è commosso parlando con voce rotta dall'emozione dell'umiltà che deve caratterizzare chi svolge ruoli istituzionali al servizio dei cittadini. Al Teatro Regio è scattata una vera e propria ovazione. Per ora è tutto, a voi la linea. E grazie ad Alessandra Schepisi. Le 13:14 minuti, ci fermiamo per qualche istante, tra poco torniamo con la situazione in Giappone e vi daremo anche il risultato dei sorteggi per la Champions League. GR24, le notizie di oggi. Libia, l'Italia valuta il proprio ruolo, tra poco il Consiglio dei Ministri, Francia e Gran Bretagna pronti all'intervento. Gheddafi promette sarà l'inferno. Napolitano parla a Torino e si commuove, nella Costituzione dice ci sono le regole del vivere comune. Champions League per l'Inter è andata bene, ai quarti troverà lo Schalke 04. Ma noi, come promesso, riprendiamo invece dal Giappone. Prima delle ultime notizie sul rischio nucleare, l'altra questione, quella economica, è intervenuto infatti anche il G7. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Ieri, lo ricordiamo, lo yen aveva stabilito un nuovo, ennesimo nel giro di pochi giorni, record storico nei confronti del dollaro, un nuovo record dal dopoguerra. Il rapporto di cambio era attestato a 76,52, con il governo che aveva accusato gli speculatori di essersi messi a comprare masse enormi enormi di yen, anticipando un eventuale rimpatrio dei fondi da parte delle compagnie di assicurazione giapponesi destinati agli indennizzi per le vittime del terremoto. A fronte di questa situazione, stanotte l'intervento congiunto dei ministri delle finanze del G7, che si sono messi d'accordo per un intervento coordinato sui mercati dei cambi all'indomani appunto di questo record. Il primo di un intervento che potrebbe essere il primo forse di una serie, secondo quanto ha lasciato intendere il ministro delle finanze francese Christine Lagarde. Questo intervento che tipo di effetto ha provocato? La rapida risalita del dollaro sullo yen, il rapporto di cambio adesso è a 81,38, ha confortato i mercati perché il Nikkei, il listino giapponese, ha chiuso con un rialzo del 2,72%, anche se a quanto pare il dollaro risulta schiacciato nei confronti delle altre divise perché l'euro ha conquistato molte posizioni sul biglietto verde, il rapporto adesso è a 1,41,31. Però c'è grande fermento in tutto questo, il petrolio ha ripreso a correre, il WTI a New York segna $103,07 al barile, tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E intanto, dicevamo, ad una settimana dal sisma e con un bilancio ormai di oltre 16.000 tra morti e dispersi, proseguono i tentativi di raffreddare i reattori ed è stato alzato il livello d'allarme a Fukushima. The situation at the Fukushima Daiichi nuclear power plant is very serious. La situazione è grave. Il numero uno dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Yukiya Amano, questa volta va dritto al punto e il livello di rischio sale da 4 a 5. Faccia a faccia con il premier connazionale Naoto Kan, Amano lo ha bacchettato con quella diplomazia educata che però non ammette repliche. Il governo deve fornire informazioni più dettagliate. Anche i giapponesi cominciano a criticare apertamente l'esecutivo per aver sottovalutato la situazione, se non nella pratica, almeno nelle comunicazioni. Comunicazioni lasciate nelle sole mani della TEPCO, società privata quotata in borsa che gestisce l'impianto e che negli anni ha collezionato non poche macchie. Problemi a diverse centrali, nascosti con la complicità delle amministrazioni. A Fukushima oggi è stata un'altra giornata spesa a cercare con ogni mezzo di raffreddare i reattori. Gli elicotteri hanno ripreso a gettare tonnellate di acqua, acqua pompata anche con i camion cisterna. Secondo la TEPCO, le operazioni di oggi hanno avuto un effetto positivo, ma da più parti si è fatta largo la convinzione che se non si risolverà il problema entro domani, al più tardi domenica, le conseguenze saranno incontrollabili. All'interno dell'impianto ci sono 180 tecnici che, a turno, stanno tentando di rimettere parzialmente in funzione il sistema elettrico. Per i giapponesi sono eroi. Il primo ministro si è rimesso nelle loro mani, gli unici che possano fare qualcosa, ha detto Kan. Ma se usciranno vivi da Fukushima, avranno poche possibilità di sopravvivere. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia nuove discussioni sul nucleare. Questa mattina altre prese di posizione. Vincenzo Miglietta. Buongiorno, è così, è il momento della riflessione nel nostro paese sul futuro del nucleare. A dettare ufficialmente la linea dell'esecutivo è stato il ministro per lo sviluppo economico. Quello che è successo in Giappone ha fatto capire Romani, impone un momento di riflessione a tutti, al sistema paese, al governo, ai tecnici, occorre fermarsi un attimo, ha detto il ministro, e capire cosa sia meglio fare. Ancora più pratico il ragionamento del ministro dell'ambiente Prestigiacomo: è finita, avrebbe confidato la Prestigiacomo, non possiamo mica rischiare le elezioni amministrative per il nucleare. Sulla stessa linea sarebbero i commenti a microfoni spenti di Berlusconi e Bossi. Scettica l'opposizione, per adesso quelle del governo sono solo parole, dice il leader del PD Bersani. Sentiamo. Dopo il Giappone è chiaro che c'è una riflessione generale da fare su questa tecnologia, e quindi il governo, se intende fare questa riflessione, sospenda gli atti parlamentari, ad esempio quello sulle localizzazioni. Quello che è successo in Giappone, commenta Vendola, segna la fine di un'epoca. Di Pietro domani intanto darà il via alla campagna referendaria contro il nucleare. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Il caso Parmalat, con un altro storico marchio italiano che potrebbe passare in mani francesi. Notizia dell'ultima ora intesa a San Paolo: titolare del 2,14% di Parmalat poco fa ha depositato la propria lista per la nomina del nuovo CDA dell'azienda di Collecchio. La lista vede come primo nome quello di Enrico Bondi, attuale amministratore delegato di Parmalat. Questa mattina era stata diffusa una nota: c'è il rischio che Parmalat diventi una filiale del colosso francese Lactalis, e per difendere l'italianità di Collecchio e fondi esteri intesa a San Paolo dovrebbero unire le forze. L'appello è arrivato questa mattina da Massimo Rossi, il manager al lavoro per la cordata dei fondi. Una sfida, ha detto, nei 150 anni dell'unità d'Italia per un marchio storico. Ve l'avevamo promesso, siamo alla Champions League, ben altre sfide sul fronte europeo. Allora, come sono andati i sorteggi? Lo chiediamo a Carlo Genta. Ciao Anna, buongiorno a tutti. Beh, benissimo direi in chiave Inter, quindi in chiave calcio italiano. L'Inter ha pescato lo Schalke 04 che, insomma, l'abbiamo ripetuto per un paio di giorni, era la più semplice delle avversarie possibili. Squadra che va molto male in Bundesliga, che ha appena cambiato allenatore. Insomma, era l'avversario più morbido. Poi, passando eventualmente il turno con lo Schalke, perché oggi è stato sorteggiato tutto il cammino fino alla fine, fino alla finale di Wembley, ebbene l'Inter prenderebbe la vincente del derby inglese tra Manchester United e Chelsea, quindi potrebbe esserci la suggestione di una remake della partita dell'anno scorso con un ritorno di nuovo di Ancelotti a Milano, ma è ancora molto presto perché questo quarto di finale almeno è ben più incerto rispetto a quello dell'Inter, almeno sulla carta. Dall'altra parte invece prepariamoci perché potremmo avere un grande derby spagnolo in semifinale. Il Barcellona ha pescato lo Shakhtar Donetsk, ha eliminato la Roma, avversario che Guardiola non voleva perché sono molto, molto insidiosi, molto temibili, molto tecnici questi ucraini. Mentre il Real Madrid ha preso il Tottenham, quindi è andata bene ad entrambe, però prepariamoci a una derby spagnolo al massimo livello immaginabile in semifinale. È andata così, l'Inter giocherà la prima partita a San Siro il 5 aprile, subito dopo il derby di Milano invece. Sarà una primavera davvero interessante. E per l'Inter davvero delle belle sfide, grazie. Come no. Grazie allora a Carlo Genta. Restiamo in Europa, crocefisso nelle aule scolastiche, la decisione oggi arriverà da Strasburgo. A scrivere la parola definitiva sulla vicenda sarà nel pomeriggio alle 15 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una vicenda che parte da lontano questa, dalla denuncia di Sonia Lauzi, una cittadina italiana di origini finlandesi, che per prima si è lamentata della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche dei figli ad Abano Terme, nel Padovano. La prima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2009 ha dato sostanzialmente ragione alla Lauzi, parlando di violazione da parte dell'Italia di norme fondamentali sulla libertà di pensiero, convinzione e religione. Il governo italiano a quel punto si è appellato alla Grande Camera della Corte che in questi mesi ha ascoltato le parti in causa e stamattina prevale l'ottimismo fra i ministri italiani. Pare infatti che Strasburgo sia orientato a dare il classico colpo al cerchio e uno alla botte, cioè a decretare da un lato la non colpevolezza delle autorità italiane, ribaltando in qualche modo il giudizio di primo grado, accettando la tesi di Roma che la decisione di mantenere il crocifisso nelle aule della scuola di Abano sarebbe stata il frutto di un processo democratico. Dall'altro lato, però, non potendo la Corte affermare che il regolamento che impone il crocifisso nelle aule sia di per sé accettabile, potrebbe dire sì al simbolo, purché i consigli d'istituto delle singole scuole votino sull'argomento se un genitore dovesse chiedere di toglierlo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tornata in Italia dopo 30 anni di esilio. Parliamo della Venere di Morgantina, statua proveniente dal Getty Museum di Los Angeles, che l'acquistò, si dice, dopo il furto di parte di alcuni tombaroli. Ora sarà allestita nel Museo Archeologico di Aidone, dove verrà presentata al pubblico. Il direttore del museo, Enrico Caruso, al microfono di Adriana Fracchia. Stiamo lavorando per sistemare al meglio le sale e riteniamo che a fine aprile, primi di maggio potrà, ancora la data non è stabilita in forma definitiva, però pensiamo che appunto possa essere disponibile al pubblico a fine aprile. Finalmente dopo tanti anni la Venere torna a casa. Sì, certo, sono quasi 30 anni che si sta lavorando per riportarla in Italia e grazie appunto all'impegno di tutte le forze dell'ordine, della magistratura, insomma si è riusciti a giungere a questo punto e con l'accordo fatto dall'allora ministro Rutelli nel 2007 finalmente si è riusciti a fare ritornare questa statua che è l'ultima di una serie di oggetti che sono stati restituiti all'Italia e il cui rientro è cominciato 2 anni fa. E con questa statua si chiude questo cerchio che era aperto grazie a questi accordi internazionali. E con questo chiudiamo anche la nostra edizione di GR24. Pietro Lacorte in regia. Prossima edizione come sempre alle 14. Un saluto da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.